Ho sempre creato divisioni fra la gente. 16 novembre. Caterina venne alle 1 di notte. Pregai a lungo con lei, poi le chiesi: virgolette, mi puoi dire che cosa hai alla bocca? Lei: vedi questa cosa? Io: sì, ma dimmi perché così? Lei: io ho sempre creato divisioni fra la gente. Poi incominciò a singhiozzare disperatamente. Io: mi fai tanta pena. Devi soffrire ancora a lungo? Lei: sì. Io: ti aiuto quando vieni da me? Lei: sì. Io: e come? Lei: pace. Io: spiegati meglio. Lei: tu mi dai pace. Io: ma come lo posso fare? Allora mi venne molto vicina e mi sussurrò qualche cosa all'orecchio. Non si poteva capire, e disparve. Strano, come passa il tempo con le povere anime. Quando lei venne, il mio orologio segnava presto l'una e se ne andò alle 4:30. Pensavo che fosse rimasta qui al massimo mezz'ora. È vestita bene con una lunga catenina d'oro, se potessi dipingere. Non è vecchia, forse 40 anni. Spero che venga ancora, ormai mi è quasi simpatica. 17 novembre. Adesso lei viene a cercarmi anche in altre stanze, si fece vedere 9 volte. 19 novembre. 2 giorni di continua pace, è stato molto comodo. 20 novembre. Caterina è rimasta con me quasi tutta la notte. Sempre quieta, sta soltanto qui così. Gianni venne anche, ha un aspetto orrendo, si riconosce molto bene. Egli non ha pace e sospira in una maniera angosciosa. Domandai a Caterina: vedi la povera anima che è qui con te? Lei: no. Io: perché no? Lei: perché io unita soltanto a te. E aggiunse ancora qualche cosa, che non capii. Io: verrai ancora spesso da me? Lei: se posso. Io: chi è che te lo permette? Lei: la misericordia. Poi disparve. Dopo pranzo vidi il cavaliere in chiesa. Andai da lui per domandargli qualche cosa, egli però non si muove, continua a pregare. Ho toccato la sua armatura, era dura. Non è un uomo vecchio, porta lunghi capelli biondi. 21 novembre. Gianni qui molto a lungo e guarda come fosse adirato. Egli continua a piagnucolare. Il pregare lo rende ancora più inquieto, direi quasi rabbioso. Caterina venne verso mattina. Io fui molto contenta di non essere più sola con Gianni. Essa incominciò da sola la preghiera, che le è cara, ne fui tanto commossa che dovetti mettermi a piangere. Mi sento tanto pentita di pensare ancora sempre a me stessa. Gianni era lì in piedi. La differenza fra i due è molto grande come giorno e notte, come l'ira e la mansuetudine. Caterina è del tutto cambiata. Io dissi: adesso stai meglio. Lei: io vedo la luce. Io: allora io posso dedicarmi completamente alle altre povere anime. Lei: non abbandonarmi ancora. Poi sparirono tutti e due. Se io mi potessi raccogliere di più per aiutarle. Sì, io potrei digiunare ancora di più. Ma allora non posso più soddisfare tutti gli altri, non ho più la forza di nascondere durante il giorno ciò che soffro di notte.